Mentre un altro posto molto accogliente del parco è l'ingresso dove ci sono i campi da boccia, dove c'è questo grande bosco. Anche quello, pur essendo affacciato su una strada, risultava uno spazio molto piacevole da vivere. C'è un signore, secondo me spettacolare, che gioca a bocce sempre, quasi sempre, con chiunque arrivi, ma con chiunque arrivi davvero. Insegna a giocare a bocce a tutti. Ed è spettacolare questa cosa perché lui, chiunque gli venga, lui dice le regole quali sono, tratta tutti come fossero loro nipoti, quindi pari pari, gli dice quello che pensa, insegna, gli aiuta. E condivide con loro uno spazio che è pubblico, che non è suo. Lui lo tratta come suo nel senso positivo del termine, che se ne occupa, che se ne tiene cura, che lo fa rispettare da quelli che ci sono, ok? E poi accoglie tutti. Adesso mio nipote dagli Stati Uniti è arrivato, ha 18 anni, si è presentato per giocare, questo qua ha preso dentro subito, gli ha insegnato e lui a 18 anni va là. Quando non sa cosa fare e lo prendono e gioca con lui, e con lui magari c'è l'anziano del sud Italia, piuttosto che il magrebino, piuttosto che lo spacciatore che mentre aspetta di fare il suo lavoro, che gioca anche lui a bocce. Per cui questa cosa qua e non succede sicuramente niente lì dove sono loro. Per cui sì, è molto bello perché gli alberi poi fanno la cornice a tutto questo.